torniamo in diretta e andiamo come colonna sonora in Svezia. Questo è un piano trio, IST, Esbjörn Svensson Trio. Oggi è protagonista decisamente. Intanto io mi scuso con Paola, probabilmente la piattaforma WhatsApp in generale potrebbe aver, non so, almeno con la nostra emittente, dei problemi. No, non ho ricevuto la tua risposta. In effetti due comunicazioni mi sono arrivate via SMS, tra l'altro me ne giunge un'altra ulteriore. Ciao, non partecipo perché ho già letto il libro di Bjørn Larsson e dell'autore misterioso Stig Dagerman. Ho letto Autunno tedesco, bellissimo, molto bello, anche se scrittura bella dura. Buona giornata a te e grazie per la recensione. Alle 8:37 minuti, confesso, un velo di malcelata emozione in quanto siamo in diretta telefonica con uno dei miei idoli tutti i tempi, edizioni Iperborea per quanto riguarda le pubblicazioni in Italia. Lo conosceremo a San Lazzaro per giovedì 23 maggio alle 21, Mediateca a San Lazzaro, incontro con Bjørn Larsson, anticipato e presentato qua su Radio Città Fujiko ai Magazine. Buongiorno signor Bjørn, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Iniziamo la nostra conversazione allora a proposito di un autore che già dal titolo di questo incontro riporta le sue scelte personali che hanno influito nei percorsi di Larsson, che parlerà dei libri della sua vita, della lettura. Io inizio dal presente. Cosa sta leggendo in questo momento Bjørn Larsson? Cosa ha sul comodino, sul tavolo, oppure non so... Sì, no, infatti sto leggendo un libro che ha da fare, non l'ho comprato per questo, però è un libro che ha da fare con il festival lì a San Lazzaro, che è Leggere pericolosamente, scritta da Azar Nafisi, che aveva già scritto un libro, si chiama Leggere Lolita a Teheran, dunque una iraniana che racconta il fatto che anche leggere può essere pericoloso, non soltanto scrivere e pubblicare, però anche la lettura in certi paesi può essere pericoloso. Certo, da quello che viviamo, da quello che si trova purtroppo con un aspetto censorio, presentissimo, sì, anche le scelte letterarie possono diventare pericolose e questo è un preoccupante motivo per tenere alta la guardia invece della cultura. Torniamo però a questa selezione, se vogliamo, letteraria che ci porta a diversi lavori. Ho presentato La vera storia del pirata Long John Silver, che ha sdoganato completamente il talento di Bjørn Larsson, e poi arriva il libro più recente che invece che è edito da Raffaello Cortina, che è una prestigiosa casa di saggi, per me è molto importante ma non solo per me. Ci parla di simboli, Perché ha avuto bisogno di questa scrittura e di questa svolta? Ci può dire qualcosa? Beh, diciamo non è proprio una svolta, nel senso che io sono stato professore di linguistica e letteratura all'università per tanti anni e dunque ho sempre fatto, diciamo, il saggista anche scientifico, sì. Però l'ho scritto in francese, non è stato mai pubblicato. Però questo libro, io direi tragicamente, grazie alla pandemia, mi sono detto adesso tu devi fare la sintesi di tutte le tue riflessioni sull'essere umano che ho fatto da tanti anni e ci sono tracce ovviamente in tutti i miei romanzi. Però in questo libro cerco di andare al fondo, diciamo, dell'umanità, che cosa rappresenta veramente l'umanità o essere umano, non nel senso morale, perché questo lo sappiamo, però nel senso quasi scientifico, certo. Dunque è questo il libro. Sì, e per quanto riguarda invece la narrativa, ho letto diversi libri, chiaramente oltre a quello che oggi abbiamo portato in frequenza e in premio per i magazine, il Cerchio Celtico, la lettera di Gertrude nel nome del figlio, insomma sono tutti lavori che danno una identificazione, come dico spesso io, territoriale, ma che nello stesso tempo rompe i confini. Com'è nata questa capacità di riuscire a portare il lettore a essere interrogato e nello stesso tempo a interrogare se stesso? Questo è un bel motivo nella scrittura, sì, che troviamo, sì, di John Larson. No, diciamo che forse ha da fare anche con la mia storia, che ho vissuto molto all'estero, parlo di 4 lingue, ho letto tanti libri in tante lingue, io mi sento radicato, però non come una cosa povera, però come una ricchezza. Adesso vivo, per esempio, 6 mesi all'anno più o meno a Milano, fuori Milano, in Italia. E questa è una ragione per questa letteratura mia, però l'altra è ovviamente che io voglio sempre sfidarmi me e anche cercare di sfidare un po' il lettore, sì, di scoprire nuovi mondi, nuove maniere di pensare, di sentire, di parlare, e dunque ho questa paura di ripetermi per prima, dunque io voglio sempre scrivere, diversificare qualcosa. Sì, assolutamente sì, io penso che questa è la cosa bella con la letteratura, che non, per esempio la letteratura di genere, il giallo, ho fatto un falso giallo un po' per rimettere in questione la moda del giallo, non il giallo in sé, perché ci sono dei bei gialli come bei romanzi, cattivi o brutti, però per rimettere un po' in questione i pregiudizi o lo status quo, eccetera, eccetera. Questa è un po' la mia idea della letteratura. La sua sensazione è, traspare perfettamente questa capacità di comunicazione variegata, che ha una radice ma che nello stesso tempo è pronta ad esplorare diverse sensazioni. A che punto siamo arrivati con la letteratura, Björn Larsson? A che punto? Beh, io sono ottimista, nel senso che sono andato lì alla Fiera del Libro a Torino l'altro weekend per presentare questo Essere o non essere umani, e c'erano, al di là del fatto che erano 220.000 persone che sono entrati, c'erano tanti giovani, e questo fenomeno adesso che si chiama Book Talk, per esempio, forse non è la mia letteratura che loro promuovono, però leggono, e questo è un buon segno. Io penso, però non so se ho ragione, però io penso che loro stanno un po', si stanno stancando dello schermo. Io l'ho visto con la mia figlia. Me lo auguro. Sì, no, anche io, perché a un certo punto sono sempre frammenti, sono cose breve, sono cose, e i giovani non sono stupidi, hanno bisogno un po' di profondità anche. E io penso che ogni volta che c'è una nuova tecnologia, abbiamo visto questo con la video, dunque il cinema era morto, eccetera eccetera, però dopo un po' di tempo si aggiusta le cose, e per scrivere ci sono tanti giovani che scrivono, forse un po' a volte con, diciamo, il mito dello scrittore e tutto il resto, sì, però certo. Meglio scrivere qualcosa anche se non sarà pubblicato, meglio scrivere per imparare la lingua, per eccetera. per comunicare, per sfogarsi, sì, per raccontarsi, che è molto importante. Sì. Io ho una personalissima idea che va a corredare il suo pensiero, che i giovani adesso hanno come, vista la fretta che è protagonista, come di perdersi qualcosa che in passato è stato vissuto. E quindi sì, c'è questo tentativo di recupero, di ascolto. Sì. E per quello anche che queste presenze sono un buon segno, come è capitato nel recente festival appunto a Torino. Sì. Ne è una conferma. Sì, bisogna anche dire una cosa, che anche noi scrittori abbiamo una parte della responsabilità, perché noi dobbiamo anche cercare di scrivere libri che sono, diciamo, importanti, urgenti per i giovani. Bei libri che parlano a loro. Certo. Non è soltanto perché si critica spesso i giovani perché non leggono, boom, boom, boom. Però siamo anche noi adulti che devono fare la nostra parte. Soprattutto, sì, aggiungo io, soprattutto. Sì, e sì, quindi ne abbiamo un'occasione importante giovedì 23 maggio alle 21, Mediateca di San Lazzaro, l'incontro con Bjørn Larsson. Così, prima di congedarci, un consiglio velocissimo per i giovani scrittori. Domanda banale, però, che è sempre importante, Bjørn. No, io penso che tutti gli scrittori che scrivono sul serio direbbero la stessa cosa. Per scrivere bisogna leggere. Però ci sono due letture. Una lettura è per piacere, per diciamo, leggere per vivere la sua vita. L'altra lettura, che è meno frequente fra loro che vogliono scrivere, è leggere per sapere come si scrive. Se uno pensa ai musicisti, ai pintori, ballerini, tutti loro studiano, loro che hanno fatto qualcosa di bello prima. Invece la scrittura a volte è come se nasce su una spiaggia al tramonto l'ispirazione. Sì. No, non è così. Non è così, no, certo. Anzi, per me bisogna dunque leggere. Leggere e far sedimentare anche le cose. Questo, sì, è il mio consiglio personale. Poi ricordo anche sabato pomeriggio, sarà il 25 maggio, dalle 14 alle 17, Bjørn Larsson, sempre in Mediateca San Lazzaro, guiderà un laboratorio di lettura-scrittura per chi si è prenotato sul sito, magari avete ancora tempo, www.scriptabo.it. A volte il mondo digitale, vede Bjørn, ci viene in aiuto in questo caso per potersi iscrivere in maniera, sì, veloce, sì, a queste, sì, però adesso si parla molto della minaccia dell'intelligenza artificiale. Forse se un computer un giorno può produrre un pezzo di teatro di Shakespeare, si potrebbe anche succedere. Il problema è che quello computer non sa che ha prodotto un capolavoro di Shakespeare. E questo è, diciamo che è un'arma per l'essere umano, la consapevolezza, sì, appunto, esattamente, è fondamentale. Esattamente. Beh, esattamente. Io la ringrazio tantissimo, mi inchino di fronte al suo talento, io sono un suo ammiratore, per cui grazie. Tutto ciò è molto sincero, onorato di questa conversazione. Sarà giovedì 23 maggio alle 21 in Mediateca San Lazzaro l'incontro con Bjørn Larsson. Io le auguro buon viaggio e buon ascolto e buona lettura. Grazie a lei, grazie e buona giornata, buona a tutti, giornata a tutti gli ascoltatori. Ciao. Allora, non vi ho anticipato niente perché ovviamente avevo timore. La chiamata era in Svezia. O cade la linea, o c'è qualcosa che non va. Quindi ho aspettato, non ho messo né nessuna anticipazione né durante la diretta del format del Breakfast Club. Ho detto, mi raccomando, perché tra un po' ho preferito dare qualche indizio ulteriore anche all'ospite, che insomma Beh, Bjørn Larsson, scrittore eterogeneo di ispirazione, completo e radicato per quanto riguarda la territorialità e nello stesso tempo con capacità di interrogare e portare noi stessi a interrogarci. Se ne potrebbe parlare in maniera molto più approfondita, come ogni suo libro ha una tematica diversa, allo stesso modo approfondita. Il suo lavoro, che appunto con Raffaello Cortina, casa editrice di saggistica veramente molto preziosa, con Essere o non essere umani, è la recente pubblicazione di Bjørn Larsson. Siamo arrivati alla conclusione dei magazine del lunedì e della prima colazione in diretta. Lo facciamo con il Duca, Duke Ellington. Cinquant'anni fa scompariva Duke Ellington, rimozioni jazz. È vero, a 50 anni dalla scomparsa, il grande pianista e compositore appare più citato che ascoltato. Io vado controcorrente, vi faccio ascoltare qualche nota di Money Jungle, un suo lavoro insieme a Charles Mingus, Max Roach, capolavoro assoluto, che appunto è una narrazione atipica per la sua produzione, ma che è stupendo. Grazie per l'ascolto, per l'attenzione, per aver fatto colazione sui 103.1. Domani martedì vi aspetto per il Breakfast Club, puntualissime alle ore 7. Vi lascio con l'Edipeo, con Libri Dentro, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, caffè e paglia fino alle 12.30. Domattina ore 7, il martedì è Altri Suoni e Move to Groove. Ciao a tutte, ciao a tutti, un caloroso abbraccio dal vostro William Piana.